Rosario Lorusso nel nosocomio 2. La metafisica è più lampante sotto questa luce al neon. È straordinariamente immobile e silenziosa la coda dei degenti per il prelievo. Nella lunga durata delle albe invernali ordinariamente fosforescente l'attesa, ogni attesa, e sono molte per le molteplici attività del nosocomio, questo meraviglioso luogo in cui attività e contemplazione coincidono. In questo luogo di perfezione noi degenti scegliamo di non pensare al futuro, perché è qui e ora la compresenza del compimento del pensiero occidentale, attività e contemplazione, contemporaneamente la realizzazione di tesi, antitesi e sintesi sposata dal nostro direttore.